per l'elezione del 6 e 7 maggio del 2012, per quanto riguarda appunto l'elezione a Cefalù del 6 e 7 maggio 2012, e cercheremo di chiarirci un pochino le idee, perché dobbiamo pure dire che anche la notizia che Sgarbi si candida, vorremmo capire con chi, sostenuto da chi, appunto perché il documento che andrò a leggervi già ha individuato, come dicevo prima, nella persona del candidato di PDL Grande Sud, Alleanza per il Sud e Urbe Città Nuova, il candidato a sindaco per quanto riguarda appunto queste quattro rappresentanti, queste quattro rappresentanze. Io inizierei da Michele Nasca. Michele Nasca, un brevissimo profilo, tralasciamo gli anni, ma comunque sono 51. Io ringrazio, però sono qualche anno in più. Ecco, è qualche anno in più, è responsabile ente locale della segreteria provinciale di Forza Italia, ma soprattutto assessore con deleghe sport e tempo libero, impiantistica sportiva, politiche giovanili. Come ringrazio Innocenzo Iacono, coordinatore dell'UDC, un giovane, tanti giovani oggi così si stanno spendendo e hanno una speranza ben precisa, quella di poter capire domani non solo con chi ci si presenterà, perché con chi ci si presenterà questo non l'abbiamo capito manco noi, o l'abbiamo capito per certi aspetti sì, per certi aspetti no, ma soprattutto quali saranno i programmi per Cefalù. Assessore Nasca, parliamo prima di tutto delle sue deleghe e parliamo appunto di sport, e di quello ne parliamo in un momento in cui il Palermo ieri ha preso 4 gol. Ma è un fatto di sport, ci stanno o non ci stanno queste differenze nelle reti subite dal Palermo, però ecco, la provincia regionale di Palermo, anche per quanto riguarda le deleghe che c'è a lei, ha cercato proprio di destinare non solo risorse ma anche attenzione al mondo dello sport della provincia. Questo certamente sì, diciamo che da quando mi sono insediato insieme al presidente Avanti abbiamo percorso tanti obiettivi, abbiamo cercato di individuare quali potevano essere priorità per quello che riguardava l'attenzione verso il mondo dello sport, e ci siamo rivolti soprattutto al mondo giovanile e all'impiantistica sportiva. Io quando mi sono insediato purtroppo ho trovato tanti beni sportivi non usati, il palazzetto dello sport di Cefalù, per citarne qualcuno, quello di Bagheria, l'impianto di canoa a Piani di Albanesi, le strutture scolastiche che appartengono di proprietà alla provincia. Ecco, abbiamo trovato tanti impianti, ma purtroppo tanti impianti inutilizzabili. Quindi abbiamo investito su questo, siamo riusciti finalmente dopo tantissimi anni, voi che siete qua locali sapete benissimo la telenovela di questo benedetto palazzetto dello sport, che credo sia adesso diventato un bene importante per questa cittadina. Ogni tanto abbiamo delle difficoltà, ma fortunatamente siamo riusciti a dare un impianto a tutti quei giovani che vorranno avvicinarsi al mondo dello sport e a quelli che già lo praticano. Io ricordo per tutti che la squadra di pallavolo di Cefalù femminile è la maggiore espressione della pallavolo in tutta la provincia di Palermo. Fino a qualche tempo fa, prima del palazzetto, aveva difficoltà ad allenarsi. Quindi per questo sono doppiamente felice, anche perché io vengo dal mondo della pallavolo, e aver potuto contribuire ad aiutare soprattutto questa squadra mi fa molto piacere. Finalmente queste ragazze avranno avuto modo di allenarsi in una palestra e in un campo che possa essere degno della loro categoria, visto che militano nel campionato di Serie B. Per quanto riguarda tutte le altre attività giovanili, abbiamo fatto tante iniziative nel mondo dello sport, con tanti giovani, andandoli a trovare anche nella scuola, cercando di sensibilizzare gli animi loro, ma anche e soprattutto quelli dei genitori, che poi influiscono molto su quello che può essere il percorso di un ragazzo, cercando di spiegare le motivazioni per cui un ragazzo deve stare vicino al mondo dello sport, e quindi credo che abbiamo fatto fino ad oggi un ottimo lavoro. Pensiamo di proseguire con tante iniziative che verranno fatte anche qui al palazzetto dello sport di Cefalù, ma su tutto il territorio provinciale. Assessore, ecco, un'altra domanda. Io intanto ringrazio, ecco, perché all'inizio ero un pochino disorientato, ma nella mia scaletta avevo previsto l'intervento del sindaco Vasta. Non è un intervento assolutamente politico oggi, ma è nelle qualità di autore, unitamente al professore Luigi Lobue, di un libro Voci di guerra e prigionia. Quindi io vi chiedo scusa, intanto devo fare un'altra domanda all'assessore Nasca. Assessore Nasca, ecco, si parla tantissimo di spazi per far sì che i giovani, i nostri giovani, possono avere la possibilità di allenarsi, possono avere la possibilità proprio di portare avanti determinate iniziative sportive. Nelle scuole abbiamo delle palestre, qua a Cefalù ci sono, liceo artistico, istituto tecnico, però la fruibilità non sempre è così, è consentita al territorio, non dico alla cittadina soltanto di Cefalù, ma anche a quanti potrebbero vedere e vedono in una palestra manca qualche cosa sull'agibilità, c'è sempre qualche cosa che manca. Lei è stato messo in situazione per quanto riguarda questo aspetto? Beh, io intanto ribadisco che intanto gli spazi, credo che il palazzetto dello sport sia lo spazio più importante che la cittadina di Cefalù possa avere, anche perché è aperta a tutte le società sportive, a tutti quelli che ne vorranno usufruire, sia la mattina che il pomeriggio che la sera. Per quanto riguarda l'impiantistica sportiva delle palestre, l'ho ribadito poco fa, abbiamo trovato in tutto il territorio provinciale un abbandono delle palestre scolastiche, per cui stiamo iniziando a ripristinare tutte quelle che sono le carenze strutturali delle palestre, perché c'è stata possibilmente poca attenzione negli anni passati, e quindi ove vi sono delle difficoltà stiamo cercando di intervenire. È chiaro che per fare gli interventi occorrono anche le risorse economiche, e quindi ogni volta non è facile, però credo che ne abbiamo recuperate tante a Palermo e ne stiamo recuperando altrettanto tante in provincia. Adesso a Palermo ci sono tante palestre scolastiche che adesso sono fruibili, cosa che negli anni trascorsi non avveniva, e ci sono tante società sportive che finalmente hanno trovato lo spazio per fare allenare i propri atleti e fare avvicinare i ragazzini al mondo dello sport. Ecco, io prima di passare all'altro argomento, che è tra l'altro un argomento che mi auguro venga seguito da coloro i quali ci ascoltano, e che possiamo dare a coloro i quali ci ascoltano un pochino di chiarezza, perché ripeto, stamattina mi sono presentato in studio un pochino disorientato, ma non come cronista, ma come cittadino cefaludese, e ribadisco il concetto detto prima, con un documento che è apparso ieri a firma dell'onorevole Giacomo Terranova, di Michele Nasca, che è presente, Popolo della Libertà, di Francesco Dolce, Alleanza per Cefalù, documento che così recita: con riferimento alle elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio dell'amministrazione comunale di Cefalù del 6 e 7 maggio 2012, il Popolo delle Libertà, il Grande Sud e i movimenti cittadini Alleanza per Cefalù e Urbe Città Nuova hanno ritenuto indicare il professor Edoardo Croce quale candidato a sindaco di Cefalù. Poi parleremo anche del professore Croce, che tra l'altro ha fatto parte dell'amministrazione Moratti, ma non è questo il punto che desidero mettere a fuoco. Ho appreso pure stamattina, leggendo Cefalù News prima di venire in studio, che Vittorio Sgarbi si candida a Cefalù quale sindaco e ha sciolto la riserva. Quindi questo è un altro tassello. Il sindaco Vasta sta dicendo: io saluto il sindaco Vasta, ripeto, è stato invitato perché ieri a Campofelice, nel Salone delle Suore, ieri sabato, si è vissuto un momento molto interessante, che riguarda soprattutto il recupero della memoria storica attraverso fatti ed eventi legati alla Seconda Guerra Mondiale. Ho voluto e desidero sottolineare la presentazione di questo libro, Voci di Guerra e Prigionia, per un fatto intanto semplicissimo: per la semplicità con la quale si è svolta la presentazione del libro. In primis, il sindaco Vasta ha voluto al tavolo di presidenza il dottor Pasquale Di Fatta, il dottor Domenico Fatta, scusate, il dottor Pasquale Fatta, mio concittadino, il dottor Domenico Longo. Ha egregiamente condotto la mattinata Vincenzo Ciminello, mi dicono che addirittura c'è una telefonata, e ha voluto anche al tavolo della presidenza il preside dell'istituto comprensivo di Campofelice di Rocella e Lascari. Mi dicono che abbiamo l'autorevole Terranova, però dobbiamo attendere perché c'è un... Allora, onorevole, buongiorno. D'accordo, ripeto, siccome la discussione che affronterò subito dopo deve essere una discussione precisa e puntuale, sia per il documento che è uscito, sia per questa notizia su Sgarbi, per cui l'onorevole Terranova, che già è stato gentilissimo, io l'ho contattato ieri sera, deve appunto presentare un momentino, perché dobbiamo fare una discussione a tre con Innocenzo Iacono, UDC, con Michele Nasca, Popolo della Libertà, e con Giacomo Terranova, Grande Sud, proprio per capire, perché da cittadino cefaludese personalmente c'è qualche cosa che in questo momento mi sfugge. Sindaco Vasta, recupero un suo passaggio. Io, che sono un topo dell'archivio storico di Campofelice di Rocella, ho ritenuto in tutti questi anni spendermi per cercare la memoria storica della città. La memoria storica lei l'ha concretizzato con un segmento, con un aspetto, e si riferisce appunto a queste lettere, alla raccolta di testimonianze dai fronti di guerra e dai campi di concentramento di cittadini campofelicesi. Io desidero ribadire: una cerimonia semplice ma molto toccante. Una cerimonia dove, per volontà del sindaco Vasta, erano solamente presenti come autorità militari il comandante della locale stazione dei Carabinieri, l'ispettore della Polizia di Stato, rappresentanti dell'esercito italiano, c'era l'assessore della provincia regionale di Palermo Di Maggio, ma come ha detto, c'erano altre autorità civili, ma come ha detto il sindaco Vasta, non ho ritenuto opportuno nel libro né patrocinio, non ho ritenuto opportuno invitare quelle personalità del mondo politico che ci stavano pure bene per quel momento, ma ho voluto vivere questo momento soprattutto con la mia comunità e con quelle persone con le quali io sono cresciuto e delle quali ho appreso tanto. Sindaco Vasta, a lei il microfono. Grazie professore, io chiedo scusa perché intervengo in una trasmissione, probabilmente il mio intervento è fuori luogo, nel senso che state parlando del futuro della città e ritengo che sia molto importante questo dibattito. Peraltro le notizie che sento, la candidatura di Sgarbi, del professore Croce, insomma sono sempre cose che fanno piacere, perché c'è un'attenzione verso la città da parte di persone che non vivono a Cefalù, e questo non può che fare piacere. A me, l'ho sempre detto, io che guardo con estrema attenzione a Cefalù come punto di riferimento turistico dell'intera provincia di Palermo, a me interessa solamente che Cefalù abbia un governo stabile che possa interloquire con le altre istituzioni in modo da rendere il territorio sempre più appetibile. E quindi auguro alla città di Cefalù di avere la possibilità di scegliere al meglio. Detto questo, passiamo invece al motivo per cui sono qua. Io ringrazio il Pino Simplicio perché mi dà modo di parlare di questa piccola cosa che abbiamo fatto a Campo Felice di Roccella. Io ieri nella presentazione del libro, peraltro era presente il professore Simplicio, era presente alla cerimonia di presentazione, alla manifestazione di presentazione, ho detto che non sono né uno scrittore né uno storico, però ho lavorato nell'archivio del comune di Campo Felice e so, essendo stato un topo d'archivio, così mi sono definito, so cosa significa trasmettere valori alle generazioni future, cioè acquisire notizie da fonti scritte e del relato, così come ho detto, cioè per avere io stesso avuto la meravigliosa esperienza di ascoltare testimonianze di persone di Campo Felice, adesso sono avanzate nell'età, ma che nella Seconda Guerra Mondiale sono stati ragazzi mandati al fronte, perché non dobbiamo dimenticare, ieri è stato detto nella presentazione, questa è stata una guerra, la Seconda Guerra Mondiale, che nessuno voleva. Peraltro un aspetto terrificante, ieri ho appreso di questi ragazzi internati che non avevano lo status di prigionieri politici, di prigionieri di guerra, per cui non avevano nemmeno il trattamento concesso ai prigionieri dalla Convenzione di Ginevra, che appunto tutela in un certo qual modo lo status di prigioniero, questi ragazzi internati italiani che morirono e perirono dimenticati da tutto e da tutti. E la fortunata circostanza, così vado subito al nocciolo del problema e vi lascio nelle vostre discussioni, sono molto più importanti di questa, vi chiedo ancora scusa peraltro per questo intervento, diciamo, che non c'entra nulla con le elezioni della città di Cefalù. La fortunata circostanza del ritrovamento di 53 lettere che sono state inviate dai fronti di guerra e dai campi di concentramento tedeschi alle famiglie dei campofelicesi, che è purtroppo mai recapitate alle famiglie stesse, perché la censura postale prima fascista e poi degli alleati, perché in tempo di guerra vigeva che le truppe alleate che occupavano una nazione per un certo periodo attuavano anche la censura postale, per cui le missive non arrivarono mai alle famiglie. Questa fortunata circostanza di questo ritrovamento di queste 53 lettere inviate dai campi di concentramento alle famiglie mai recapitate mi ha fatto scattare l'idea di pubblicarle. Sai, il dubbio era atroce, perché violare la sacralità degli affetti, le cose intime e private, perché alcune lettere non le abbiamo pubblicate per intero perché contenevano chiaramente delle situazioni che non potevano essere pubblicate, però abbiamo fatto un sunto di queste lettere e ieri è stato un momento molto emozionante, perché abbiamo consegnato le lettere alle famiglie di questi valorosi concittadini. Cioè, capirai l'emozione, no, professore? L'hai vissuta? È così, sindaco, l'emozione che vibrava proprio nella sala nel vedere queste lettere del proprio padre, del proprio marito, le persone che baciavano le lettere, che iniziavano: caro papà, cara mamma, sono sul fronte di guerra, sono in Russia, non so se ritornerò, eccetera eccetera. Erano momenti toccanti veramente, abbiamo vissuto un momento bello per la comunità, ritengo, di Campo Felice. Non ha la pretesa di essere un grande libro, però quella raccolta di 53 schede di queste lettere e la prefazione mia del professore Lobue, che insieme a me ha voluto lavorare su quest'opera, ritengo sia una testimonianza importante su cui magari Campo Felicese e non possono iniziare degli spunti di riflessione, delle valutazioni, eccetera, anche a scuola, professore. Ecco, io questo già l'ho detto ieri, caro sindaco, perché sicuramente il libro sarà uno strumento e sarà di supporto soprattutto ai nostri ragazzi per capire, ai nostri giovani soprattutto, quei valori che purtroppo nella società del 3000 a volte si perdono. Io o non vengono recepite nella direzione giusta, ecco, non dico che si perdono. Io le voglio dire questo prima di avviarci così alla conclusione. Secondo me la presentazione ieri, al di là degli interventi precisi e puntuali del professore Lobue, del dottore Fatta, del dottore Longo, la presentazione è stata fatta dai presenti. Una sala al gran completo, con giovani e meno giovani presenti, con persone, proprio cittadini comuni, mi piace utilizzare questo termine, cittadini comuni, che hanno vissuto quel momento della presentazione proprio come fatto personale, hanno fatto la presentazione proprio come giusto che era e che sia, come cosa che appartenesse alle loro famiglie e a coloro i quali appunto hanno perso la vita e con quali sentimenti hanno scritto. Questo, secondo me, caro sindaco, è stato il momento più bello della mattinata. E ancora aggiungo, nella semplicità a volte si trovano quei valori che, come dicevo prima, non sempre vengono perseguiti. Io le faccio l'ultima domanda e poi ci salutiamo. Lei ha detto all'inizio, quasi quasi come se fosse un intruso, ieri si è scritta una pagina di cultura con la presentazione del libro. Io gradirei che questa cultura ci fosse anche in politica, caro sindaco. Mi permetto di dire che oggi stiamo perdendo quella visione di cultura con la C maiuscola che dovrebbe portarci a parlare di programmi, di soluzione di problemi, del perché al cittadino cefaludese oggi interessa sapere come si andrà avanti dopo il 5, il 6 e il 7 di maggio, perché sicuramente stiamo vivendo una situazione difficile e Cefalù non si può permettere di vivere questa situazione difficile con tutte il patrimonio artistico e i beni che la natura e Gesù Salvatore gli ha voluto dare. Quindi io direi, caro sindaco, ora interverrà l'assessore Nasca, che noi stamattina ci salutassimo proprio ribadendo questo concetto di cultura e di queste attenzioni che ci debbono essere per scoprire il passato della nostra società e della nostra comunità per poter progettare un futuro migliore. Io ritengo che la cultura si sposi perfettamente con la politica, anche se la politica a volte per questioni di preconcetti, per pregiudizi, per affermazione di ideologie e di quant'altro, a volte si calpesta la cultura. Però vedi, io sono convinto, io questo libro lo porterò per esempio in America. Giorno 9 di marzo adesso partiremo per l'America per incontrare i concittadini campofelicesi residenti lì, affinché non si interrompa mai questo cordone umbilicale, questo legame che c'è tra chi è dovuto partire per questioni di lavoro, con tanti sacrifici e purtroppo è lontano dalla terra in cui è nato. Porteremo questo libro lì, ma anche questa cosa ha creato nella politica malumori, polemiche, che in un periodo di crisi non è giusto che le amministrazioni vanno in America. C'è tutto un progetto regionale, un bando regionale di un assessorato regionale che a cui abbiamo partecipato, abbiamo vinto noi il comune di Codrano, partiremo il giorno 9, resteremo lì 8 giorni, però per dirti che la cultura a volte si scontra con la politica e con le appartenenze. Purtroppo è così, non viviamo in un altro pianeta, anch'io sono un soggetto politico, giornalmente e quotidianamente mi scontro con queste cose, per cui non mi scandalizzo se a volte appunto è sbagliato, attenzione che la cultura, però non mi scandalizzo assolutamente se la politica a volte per questioni di appartenenza o quant'altro non va a braccetto proprio con la cultura. È sbagliato, non dovrebbe succedere, però succede, viviamo in questa terra, in questo pianeta, e quindi non mi scandalizzo. Grazie autore Vasta, grazie a lei, grazie al suo collega che ha diviso con lei questo impegno, il professore Lobue, grazie per la sua presenza qua, e arrivederci ad una prossima occasione di incontro. Grazie sindaco. A voi, grazie a voi. Grazie. E allora, prima di andare in pausa, riprendiamo la nostra situazione per quanto riguarda verso le elezioni comunali del 2012 a Cefalù. Allo stato attuale, come è stato scritto, abbiamo dei candidati che sono praticamente, per quanto riguarda il PD, abbiamo la Punzina, per quanto riguarda l'UDC calabrese, poi il sindaco Guercio, l'attuale sindaco, è transitato al PD e quindi ha rimesso al PID, è transitato al PID, che adesso è Cantiere Popolare, grazie, e quindi ha messo nelle mani del suo leader romano eventuale candidature, e quindi allo stato attuale siamo un pochino fermi da questo punto di vista. Poi l'UDC propone la candidatura di Calabrese. Ancora il SEL, quella di Caleò, abbiamo, come si diceva prima, il professor Croce, proposto appunto dal Grande Sud, proposto dal PDL, poi abbiamo anche Alleanza per Cefalù, che converge sul professore Croci, e abbiamo anche Alleanza per Cefalù. Quindi allo stato attuale abbiamo questa situazione. A questo si aggiunge Vittorio Sgarbi. E allora io invito i radioascoltatori di pazientare ancora un momentino, perché andremo in pubblicità. Passo la linea alla regia, a risentirci fra qualche secondo per quanto riguarda appunto verso le elezioni amministrative a Cefalù del 2012. Grazie. Pubblicità. A Cefalù, al numero 66 di via Mandralisca, Caffè 66, food, drink e... Nel centro storico di Cefalù, vicino al Duomo, un locale per tutti. Atmosfera calda, accogliente e amichevole. Pub Caffè 66, food, drink, creperia, panineria, bruschetteria, wine bar, birreria, insalate e piatti tipici. Lo trovate anche in internet su www.caffè66.altervista.org. Caffè 66, al numero 66 di via Mandralisca, di fronte il museo. Il modo migliore per rendere felice una donna è regalarle un gioiello, un valore eterno, adatto a sigillare unioni profonde e inossidabili. Da Mineo Gioielli, le più preziose idee regalo proposte con professionalità ed eleganza, perché un gioiello è testimone di momenti memorabili. Mineo Gioielli, la preziosa artigianalità e l'eleganza di collezioni esclusive che fondono il freddo dei gioielli con il calore di sentimenti irripetibili. Mineo Gioielli, via Flavio Gioia 3, telefono 091 962 313 a Bagheria. Una tradizione che si trasmette nel tempo. Hobby Garden, piante ornamentali, piante da frutto e da orto, attrezzature agricole, hobbistica per giardinaggio, giochi d'acqua e accessori, programmatori e raccorderia per irrigazione, terrici universali, sementi per tappeti erbosi. Hobby Garden di Cova Salvatore, via Montessori Cortile 3, contrada Pacenzia, telefono 0921 92 17 51 a Cefalù.

Lunedì mattina saranno resi noti ulteriori dettagli con uno specifico comunicato. L'ho detto male, ma comunque ho capito il significato. Diciamo, mi coglie di sorpresa, nel senso che la presenza di Sgarbi, o meglio la sua comunicazione riguardo all'epilogo della vicenda Salemi, sembrava averlo definitivamente allontanato da esperienze amministrative nella regione siciliana. Quindi, come spesso capita, ha rivisitato la sua stessa decisione, perché del nome di Sgarbi si era già sentito qualcosa nelle settimane passate, nei mesi passati. Però, diciamo, poco conta questa vicenda, terremo conto anche di questo ulteriore elemento. Per quanto attiene la nostra posizione, come le ho anticipato ieri, è una posizione, diciamo, abbastanza chiara, nel senso che del nome relativo al candidato Croci già da qualche settimana si parlava ripetutamente, e se gli elementi di incertezza che sembravano riguardare la sua candidatura non erano veritieri, nel senso che il dibattito locale sembrava orientato, da quello che a me risultava e per come era stato rappresentato, esclusivamente ad altri elementi che non fossero l'individuazione del candidato sindaco, che doveva rappresentare il punto di sintesi di una coalizione abbastanza ampia, quanto elementi accessori che potevano trovare in un'altra fase un utile e migliore, diciamo, definitivo posizionamento. Quindi a questo punto abbiamo liberato quello che sembrava certo, con una candidatura di altissimo profilo, prestigiosa, di un professore che può dare in qualche modo lustro al progetto politico per il rilancio di Cefalù, una candidatura tecnica terza rispetto alla logica dei partiti, assolutamente inclusiva, quindi per quanto nata all'interno e nel perimetro di alcuni partiti e liste civiche, è una candidatura che si presta al confronto ed al conforto di quant'altri con queste caratteristiche e con questo profilo vorranno diciamo sposarla. Quindi non comprendo le polemiche collegate alla mancanza di condivisione che non c'è, perché sul nominativo mi è sembrato che la questione fosse definitivamente risolta, e attardarsi nella decisione non avrebbe certamente giovato alla questione del candidato, ma se le perplessità venivano collegate a questioni diverse, potranno trovare in un altro momento soluzione. Quindi, sintetizzando, adesso lei ci ascolta bene, vero? Perché prima vi sento male, però ripeto, riesco a sentire. Ecco, anche il concetto di prima, quello che ho letto, perché forse la mia voce non le arrivava bene. Ascolti, onorevole, lei è stato chiarissimo, sintetizzando, intanto individuiamo la figura di sindaco e poi si può discutere su tutto il resto. Assolutamente sì, perché questa vicenda, proprio per il profilo tecnico di terzo soggetto rispetto ai politici, alle forze politiche, non contamina le discussioni che toccheranno sia il perimetro della coalizione. Qualche partito vuole partecipare a questa scelta, non c'è nessuna pregiudiziale, valutando modalità e confini e condivisione di aspetti di amministrazione, probabili aspetti, diciamo, legati alla composizione della giunta, per essere chiari. Poi ripeto, andiamo in campagna elettorale e si vedrà. Le forze politiche vorranno partecipare, potranno farlo tutte con pari dignità, perché questo è un sindaco che non è riconducibile ad un partito. E questo è un elemento fondamentale, è una scelta che va al di là dei partiti, quindi i partiti tutti, compreso il mio, avranno modo di confrontarsi per quello che tocca gli impegni di amministrazione al di là del primo cittadino con pari dignità. Quindi primo elemento di assoluta chiarezza, ed era questa una cosa che andava fatta secondo me con velocità, perché poi, come si vede, incominciano a venire fuori altri candidati e noi restavamo sostanzialmente fermi. Ecco, onorevole, per quanto riguarda, giustamente individuiamo i candidati, ma c'è la speranza un domani di poter ascoltare i programmi per capire come risolvere e mettere in condizione il cittadino di votare, con tutto il rispetto per la persona, sul programma, sull'impostazione ma che si vuole? Questo è evidente, nel senso che però la questione in qualche modo riguardo i processi di individuazione del soggetto che poi dovrà interpretare il programma stavano prendendo una piega abbastanza non corretta, e allora questo è il primo step. Io mi riservo di parlare con il mio partito domani sarò a Cefalù per una riunione apposita, poi in sede politica con i rappresentanti delle altre sigle, partiti o di liste civiche, condivideremo quello che sarà l'intelaiatura del programma, che sarà interpretato dal sindaco e portato poi nel momento decisivo alla comunicazione con una conferenza stampa a ciò espressamente dedicata. In questa fase ci siamo limitati a stralciare e a far capire su quale strada intendevamo andare, senza che alcune posizioni che ho letto anche sulla stampa questa mattina potessero far pensare che anche la questione del sindaco ancora non era stata risolta. Non mi pare che questo fosse il problema, ed è anche vero che se poi si pensa che tutti vengano coinvolti in un processo decisionale collettivo, questo toccherà soltanto ai cittadini al momento del voto. I partiti o una parte degli stessi aveva scelto questa strada, la porta all'attenzione, chi vuole venire con noi è assolutamente possibile che venga, diciamo, accettato a chiarezza di condizioni e di percorso, e questo lo faremo nei giorni successivi. Ecco, onorevole, io prima di salutarlo, così vogliamo un pochino anche allentare qualche tensione con una battuta. Non è che Sgarbi si è preso d'invidia perché a Cefalù è stato individuato Croci, che è stato licenziato dalla Moratti nel giorno del suo compleanno, perché anche Sgarbi è stato licenziato dalla Moratti nel giorno del suo compleanno? Beh, diciamo che questo elemento mi mancava, ed effettivamente fa sorridere, serve proprio per smorzare la questione. E di quelli che sono però i sentimenti di Sgarbi e i suoi processi decisionali, al di là della straordinaria intelligenza che credo gli venga universalmente riconosciuta, però facciamo tutti fatica a seguirne l'estro. Ecco, perché già lo davo lontano dalla Sicilia irrimediabilmente, oggi ritorna animato di buona volontà e in questa grande disponibilità a prestare i suoi servigi in ogni parte, in ogni comune. Credo che questo non è esattamente quello che dovrebbe caratterizzare un progetto politico. Un cittadino si intende mettere a disposizione per una realtà. Esaurita quell'esperienza, poi non credo che possa essere ripetuta altrove ogni qualvolta si creino le condizioni. A me questo atteggiamento di disponibilità eccessiva a rappresentare ogni municipalità non mi pare che rappresenti il meglio. Però ripeto, non voglio polemizzare, anche perché non tocca a me farlo, non è una polemica. Ripeto, mi ha soltanto stupito perché lo pensavo già definitivamente lontano dalla Sicilia, e invece ecco che ritorna, a volte ritornano, ecco. Allora, guardi in studio, e quindi anche loro desiderano salutarla, abbiamo Franco Vasta, Michele Nasca e il coordinatore Iacono dell'UDC. Noi la lasciamo alla sua domenica, che è intensissima. Michele Nasca del PDL, che è un amico, quindi buona giornata e buon lavoro a tutti. E noi le auguriamo buon lavoro, perché sappiamo che ha una domenica molto intensa. Sì, diciamo tipica da periodo da campagna elettorale, quindi al lavoro, al di là del fatto che sia un festivo. Grazie e buona giornata. Buona domenica, grazie. E allora, caro Innocenzo, coordinatore cittadino dell'UDC, tu te ne sei stato tranquillo, sereno, fino adesso ad ascoltare. Ora la mattinata è nostra, perché ho due ospiti appunto in studio con i quali possiamo continuare, cercare sempre di precisare alcune situazioni, alcune posizioni. L'UDC ha il suo candidato calabrese. Io non so se tu hai letto una scheda che Nicolò Pizzillo stamane ha presentato sull'altra Cefalù. Sì, io saluto Nicola, che faceva alcuni conti, anche se le elezioni sono state nel 2007, adesso i conti possono essere pure tutti sballati, però per certi aspetti più candidati a sindaco ci sono, più frammentazione c'è. Ecco, voi allo stato attuale avete il vostro candidato? Avete così discusso su eventuali alleanze che si possono fare? Avete avuto contatti col PD, per esempio, ecco, oppure con qualche altra forza politica? Sì, Pino, ti ringrazio innanzitutto dell'invito. Ora arrivo subito al punto. Innanzitutto volevo fare complimenti al sindaco Vasta per l'iniziativa di cui ha parlato prima, perché penso sia importante, soprattutto di questi tempi, recuperare il senso di comunità che delle varie città e delle varie cittadinanze, cosa che a Cefalù secondo me manca e continua a mancare. Poi per quanto riguarda invece la questione politica e tutto quello di cui abbiamo parlato finora, guarda Pino, io onestamente sono per certi versi anche sconcertato da quello che sento e dalle notizie che vedo. Penso che in politica, soprattutto in questo periodo, in questi periodi, paghi la chiarezza e anche la sincerità e la verità di cui ha bisogno la cittadinanza e di cui ha bisogno la gente. E sono tante le domande che mi vengono in mente. Mi dispiace che non sia presente oggi il coordinatore cittadino di Grande Sud, che era stato invitato, perché io ad esempio chiederei a lui, e prima c'era l'onorevole Terranova in diretta, no? Grande Sud è un partito che nasce, da quanto dichiara anche lo stesso Miccichè, ha dichiarato al Sipalas di Cefalù l'estate scorsa, un partito che nasce, diciamo, ripercorrendo l'idea della Lega Nord, diciamo un partito che valorizzi il territorio, che valorizzi le risorse presenti nel territorio, in generale si parla di Sud, che è un partito come Grande Sud ricorra a una personalità che finora non ha avuto nessun legame diretto con il Sud e comunque un esponente. Pino, io non lo vedo la Lega che candidi un palermitano come sindaco di un comune così importante di una regione del Nord. Qua secondo me parliamo di cose che stanno fuori dal mondo. Qual è il progetto di Grande Sud? Sono solo parole allora il fatto di volere rilanciare la Sicilia, rilanciare Cefalù, rilanciare il nostro territorio? Poi per quanto mi riguarda, io il professor Croci, si è parlato del professor Croci, onestamente mi sono andato a documentare quando ho saputo la notizia, perché nei miei percorsi di studio, comunque nella mia esperienza, non ho mai incontrato questo nome né all'università né in altri tipo. Sapevo della sua esperienza come assessore della giunta Moratti, che è finita, diciamo, quando è stato cacciato. Però mi sono documentato e con tutto il rispetto per il professor Croci non vedo cioè cosa possa garantire lui oggi a Cefalù. Nel senso, per me il prossimo sindaco di Cefalù è un sindaco che deve stare a Cefalù, al comune, H24, cioè 24 ore al giorno. Sarebbe da chiedere al signor Croci se lui è disposto a lasciare tutti i suoi impegni accademici, tutta quella sua attività per stabilirsi definitivamente a Cefalù, perché il prossimo sindaco di Cefalù non viene a giocare al comune, deve venire e garantire una presenza costante alla cittadinanza che lo va a eleggere. Questa sarebbe una prima domanda da fare al signor Croci. Poi per quanto riguarda la notizia che è apparsa stamattina di Sgarbi, io qua ancora una volta resto sconvolto, cioè nel senso che per me sì, ho letto che giustamente i ragazzi del PDL, anche nei social network, nei mezzi di comunicazione, avallavano un progetto che loro condividevano e per cui si sono impegnati con grande forza, spendendo tante energie, cosa che io ammiro personalmente, perché quando c'è un progetto da seguire si mettono energie per realizzare quel progetto, è sempre qualcosa di positivo. L'ipotesi Sgarbi era tramontata perché il PDL stesso aveva, insieme a Grande Sud e gli altri due movimenti, avevano appoggiato la candidatura di Croci, avevano dato comunicazione ufficiale. Ora che mi chiedo, tutti quei ragazzi che del PDL, quindi la forza nuova del PDL, che è un partito che a livello nazionale sta perdendo sempre più consensi e quindi giustamente punta anche su una nuova classe giovanile per rilanciarsi, tutti quei ragazzi che sposavano l'idea di Sgarbi, come si pongono adesso sul fatto che Sgarbi si ricandida, quando è loro partito un altro candidato? Tanti se ne sono usciti già praticamente dal PDL, da quello che leggo io sui mezzi di comunicazione, se ne sono usciti dal partito stesso. A me sembra una situazione paradossale che ancora oggi si discute di questo. Per quanto riguarda invece la nostra situazione, penso che quello che ci... Ecco, Innocenzo, per quanto riguarda la vostra situazione, ma perché tutti vogliono fare il sindaco e nessuno, per esempio, il vice sindaco o l'assessore? Perché tutti... Allora, io potrei... la risposta la potrei dare perché ho avuto la fortuna di conoscere l'avvocato Giuseppe Corsello, che è stato anche sindaco a Campofelice di Rocella, e lui parlava di giri che ognuno doveva fare ai tempi, di giri che doveva fare, sia per la processione del Venerdì Santo, sia col gelato, per dire che sono sindaco. Perché tutti sindaci e nessuno vice sindaco? Guarda, ti stavo parlando appunto della nostra situazione. Penso che quello che ci ha contraddistinto nell'ultimo periodo, negli ultimi mesi, sia stata la chiarezza. La nostra candidatura, che è stata quella ufficializzata durante la Winter School che si è tenuta al Costa Verde con la presenza di Casini anche. È una candidatura di partito, ma se chi ha prestato attenzione ha visto che nelle dichiarazioni dello stesso avvocato calabrese, il giorno dopo stesso, mi pare, ha rilasciato una dichiarazione su Cefalù News dove diceva che è una candidatura di partito aperta a una discussione, e non è una candidatura imposta, nel senso sediamoci, il candidato sono io e basta, sediamoci e discutiamone. Appunto questo mi riallaccio a un discorso che avevo tralasciato prima. Ho letto la settimana scorsa dell'invito, ad esempio, che aveva fatto il signor Cortina al sindaco Guercio, al tavolo che lui definiva del centrodestra, per quel tavolo che ha portato alla designazione di Croci quale candidato sindaco. Certe cose secondo me succedono solo a Cefalù. Scusami, Innocenzo, più che al sindaco, al PID. Mi sembra al che PID, sì, al PID, chiedendo al sindaco Guercio di fare un passo indietro. Chiedendo al sindaco Guercio di fare un passo indietro, che lui, diciamo, ha fatto rimettendo la candidatura nelle mani del partito. Sì. Comunque certe cose secondo me succedono solo a Cefalù, che si parli a Cefalù di un tavolo del centrodestra senza considerare l'UDC. Cioè, penso che a livello nazionale, regionale, forse solo a Cefalù non si considera l'UDC come la realtà più importante del centro, o comunque in una prospettiva terziopolista non si può non tenere conto dell'UDC. Non capisco perché a Cefalù si possa permettere questo di parlare di centrodestra senza aver invitato me personalmente, che sono il rappresentante dell'UDC, o qualche altro componente dell'UDC. Ecco, questa è una situazione dove c'è assolutamente poca chiarezza. Poi, concludendo, si fanno tanti nomi, questo io ho espresso il mio parere su Croci, anche su Sgarbi, che non vedo comunque calati nella realtà che noi viviamo, nella realtà soprattutto cefaludese, ma neanche nella realtà del palermitano o siciliana, mi oserei dire. Pensando, ti parla tanto di governo tecnico, no? A parte che affidarsi ai cosiddetti tecnici è secondo me un rischio, e sarebbe la fine della politica. Per determinati periodi magari può andare bene, ma dobbiamo stare attenti a dare tutta questa fiducia incondizionata ai tecnici, lasciando da parte quel ruolo della politica. Io, ad esempio, un nome che non si è fatto mai e che io vedrei benissimo se si dovesse veramente realizzare questo progetto di governo tecnico a Cefalù è quello di Roberto Lagalla. Quello sarebbe un personaggio che si potrebbe calare pienamente nella realtà cefaludese. È stato già rettore dell'Università degli Studi di Palermo, assessore alla sanità in un periodo in cui c'erano gravi problemi con il bilancio in quel settore. Vedrei benissimo lui come candidato sindaco a Cefalù se si dovesse parlare di governo tecnico, non un personaggio che finora con la nostra realtà non ha avuto mai niente a che fare. Assessore Nasca, lei ha ascoltato, io le faccio una domanda. Per 10 anni Simona Vicari, Forza Italia, è stato sindaco della città di Cefalù, quindi di fatto una persona che veniva da fuori dell'ambiente cefaludese. Quando la Vicari ha terminato il secondo mandato, mi permetta di dire che Forza Italia, allora PDL con il Alleanza Nazionale, parliamo noi adesso di Forza Italia, dopo la Vicari Forza Italia quasi quasi così non si è più ritrovata, sia per quanto riguarda le elezioni, sappiamo i voti riportati da Ciccio Dolce, quindi sono state 1000 e passa eccetera. Voi avete puntato su questa persona, che non si discute dal mio punto di vista come persona di spessore, di esperienza, di cultura. Guai a discutere su di una persona del genere, ci perderemo. Pensate che aver puntato nuovamente su una figura esterna, che non mi preoccupa se la figura è esterna, può influire questo fatto anche un domani sul futuro del PDL? Allora, intanto, come diceva poco fa l'amico Innocenzo, mi voglio associare ai suoi complimenti al sindaco Vasta per quella splendida iniziativa che onestamente per qualche minuto mi ha fatto sentire fuori luogo a me. Volevo soltanto ribadire che intanto non è vero che noi sul territorio, come con il Popolo delle Libertà, con il Popolo Libertà abbiamo abbandonato il territorio, tant'è vero che l'ultima l'ultima tornata elettorale, quelle delle europee, proprio a Cefalù, proprio in libertà, ha raccolto il 41% dei consensi. Dicevo che la scelta del candidato sindaco di Cefalù, bisogna intendersi su quello che è il concetto di sindaco. Noi abbiamo una grande responsabilità. Io credo che questo non sia più il momento né dei personalismi né quelle delle contrapposizioni violente. Questo è un momento difficile in cui io credo che sia necessaria la pacificazione sul territorio, cioè le forze politiche, in cui si possa lavorare insieme per poter sviluppare un progetto che possa rilanciare questa città. E poi io credo che uno dei requisiti importanti che debba avere un candidato sindaco in una cittadina, e qui a Cefalù, non è tanto dove sia anagraficamente nato. Io credo che la cosa più importante è che questo sindaco abbia come primo requisito l'amore per questa città. E io devo dire che ho incontrato il professore Croci, l'ho visto molto entusiasta, e la prima cosa che mi ha detto è: io amo Cefalù, e nelle vene dei miei figli scorre sangue cefaludese, perché come voi tutti sapete la moglie del professore Croci è una cittadina, Marina Verderame, esattamente, la signora Verderame, che è nata qui a Cefalù, e come voi ben sapete il professore Edoardo Croci ha anche qua una residenza estiva in cui trascorre le sue vacanze. Io voglio dire che noi siamo partiti non dall'individuazione del candidato sindaco, noi siamo partiti da chi voleva stare insieme a noi e quali potevano essere le forze politiche e sociali che volevano aggregarsi su un progetto, e su questo poi poter individuare la persona che potesse fare sintesi e interpretare al meglio le idee di questa coalizione. Ecco perché noi abbiamo ritardato ulteriormente l'ufficializzazione del professore Croci, perché abbiamo voluto mettere insieme una grande coalizione che, come ha detto l'amico mio, Terranova, vuole essere inclusiva e quindi aperta anche ad altre forze politiche e sociali che vorranno sposare il nostro progetto. Il professore Edoardo Croci è un eccellente economista ambientalista, soprattutto si occupa professionalmente sia di ambiente ma anche di sviluppo economico e di sviluppo sostenibile, e credo che questi siano i requisiti importanti in questo momento in cui tutto il territorio nazionale, ma per quello che ci riguarda il nostro territorio, soffre una grande crisi economica. La cittadina di Cefalù sta a cuore a tutti i siciliani, perché soprattutto per noi che viviamo al territorio provinciale sappiamo benissimo quello che rappresenta Cefalù. Anche io non sono cefaludese, ma mi sento di amare questa città, sapendo che è il fiore all'occhiello della nostra provincia e che ha grande potenzialità certamente non espresse, e che noi possiamo, con un progetto di gente qualificata, poter rilanciare. Il professor Croci io credo che interpreterà al meglio questa idea, e io credo che sarà un momento importante. Noi lo presenteremo, come ha detto il Giacomo Terranova, in una conferenza stampa. Stiamo lavorando insieme per poter realizzare un programma che condivideremo con lui. Secondo le sue, lui è anche un grande innovatore, e quindi ci confronteremo su quello che saranno i perimetri di questo programma per poter portarlo all'attenzione di tutti i cittadini cefaludesi, che credo che in questo momento abbiano bisogno di serenità su quelle che vogliono essere le progettualità di una coalizione, e vogliono soprattutto vedere quali sono le reali e concrete possibilità che una coalizione può esprimere per portare benessere a questa cittadina. Quindi io non voglio entrare in polemica con gli altri partiti, con le altre forze sociali, voglio soltanto dire che il nostro è un progetto chiaramente inclusivo, e per cui tutti quelli che vorranno relazionarsi con noi ben vengano, ne possiamo tranquillamente parlare. E ripeto, questo non è il momento dei personalismi, ma bisogna creare delle grandi correzioni che soprattutto portano serenità, pacificazione e mediazione fra quelli che sono le componenti del tessuto sociale cittadino. Assessore Nasca, il sindaco Vasta, stia tranquillo perché la domanda è pure per lei. La trasmissione in questo momento è seguitissima, si susseguono notizie e ringrazio Mario Macaluso per questo scoop, chiamiamolo così, che io vado a leggere. Grazie Mario per la collaborazione. C'è il settimo candidato sindaco, ci ha scritto e domattina pubblicheremo la sua disponibilità. Si tratta di un noto professionista che opera nella nostra città. I candidati sindaci quindi in questo momento sono 7. Oltre al sindaco uscente Pippo Guercio, infatti hanno già dichiarato di scendere in campo il capogruppo del PD Rosario Lapunzina, il candidato dell'UDC Francesco Calabrese, quello di SEL Mauro Caleò e poi il candidato del PDL di Grande Sud, Urbe e Alleanza per Cefalù, Edoardo Croci. Da sabato sera c'è anche la candidatura ufficiale di Vittorio Sgarbi per il Partito della Rivoluzione e da domani mattina conosceremo ufficialmente anche il nome del settimo candidato. Grazie Mario Macaluso per questo contributo che hai voluto dare alla trasmissione. Sindaco Vasta, io faccio parlare lei, ecco, che diciamo in questo momento che significato può dare lei a tutti questi candidati al sindaco? Dio, qualcheduno parla di vice sindaco, di assessore, di starsene dietro le quinte e dare una certa collaborazione. Prego sindaco. Ma guarda Pino, io non la vedo negativa questa cosa, devo dirti la verità. Perché più attenzione c'è verso la città di Cefalù, più si mulinare s'azzuffa, una farina ve ne è buona. Questo è un detto madonita che io credo possa essere coniato proprio per la vicenda che stiamo vivendo. Le attenzioni verso la città, perché ritengo anche la candidatura del professore Crocio, di Sgarbi o di altri, siano un atto d'amore verso la città, nel senso che se uno si spende e mette la propria faccia esponendosi in questa situazione, presumo abbia dentro di sé qualcosa da dare alla città. Io sono convinto che tutti e 7 i candidati, o meglio 6 li conosco, so chi sono, il settimo è un'incognita, ma sono convinto, guarda, non vorrei essere cattivo, sono convinto che altri se ne aggiungeranno. Non credo che si fermi a 7 la corsa al sindaco di Cefalù. Credo che qualcuno stia per ora nell'ombra ad aspettare quello che succede e poi verrà fuori. Secondo me verranno fuori altre candidature. Io l'eccessiva frammentazione certo non fa bene né alla politica né alla città, però è giusto che ognuno possa esprimere la propria idea in una competizione peraltro che segna un momento importante nella vita, nella vita, perché andrà a fare il sindaco chi prenderà più voti, quindi questa è la legge, sì, elettorale, anche questo è un dato. Ecco, e infatti io adesso desidero ascoltare io vi lascio poi perché devo andare a Castellana adesso nelle Madonie. Io sono convinto che dicevo l'eccessiva frammentazione non fa bene alla città e nemmeno alla politica, però siccome siamo a un bivio, fare il sindaco oggi, guardate che è difficile perché si amministrano responsabilità e stipendi agli impiegati, punto. Nessun potere discrezionale c'è più nelle mani del primo cittadino, in quanto le risorse che si amministrano sono esigue e non si possono garantire nemmeno i servizi essenziali. Io sfido chiunque a dire che non è così. Il patto di stabilità, i vincoli di bilancio, l'eccessiva produzione di balzelli e quant'altro ha prodotto una restrizione dell'economia, la gente non ha più la liquidità nemmeno per pagare nell'ICI, nella TARSU, eccetera. Stiamo vivendo un momento molto molto molto difficile, tutti i comuni sono in situazione di difficoltà. Certo Cefalù ha qualche problemino in più, però voglio dire, anche Cefalù ha bisogno, ecco, è un momento importante, decisivo, nella storia non della cittadina normanna, mi permetto di dire, ma nella storia di un intero comprensorio. Noi sappiamo benissimo che se Cefalù tira, tutto il resto va dietro Cefalù, l'abbiamo sempre guardata come punto di riferimento. Io amo questa cittadina, continuerò a farlo e auguro ai cefaludesi di scegliere il meglio possibile per loro e per il comprensorio. Adesso vi saluto, vi ringrazio per avermi dato la possibilità di dire la mia, saluto gli amici, Michele Nasca peraltro che conosco da tantissimo tempo, ho apprezzato le dichiarazioni di Innocenzo, mi sono piaciute, rispetto anche a questa visione di vedere la politica come un fatto che debba necessariamente coinvolgere la politica vista da parte di un giovane che si siede al tavolo e dice: io ho bisogno di interloquire, scambiare le mie idee e proporre quello che ho da proporre per la città. Queste esperienze giovanili che si mettono a servizio di un progetto per la costruzione di una comunità importante che è Cefalù, sono esperienze da valorizzare senza dubbio. Io ho avuto il piacere qua di stare in mezzo agli amici, vi ringrazio ancora una volta per avermi dato la possibilità e saluto tutti i cefaludesi e un bocca al lupo ai candidati, a quelli che conosco e a quelli che non conosco. Grazie sindaco. Assessore Nasca, il suo punto di vista, il settimo candidato. Ma guardi, ripeto, ognuno ha il suo modo di interpretare la scelta di un candidato sindaco. Noi abbiamo scelto prima la coalizione per poi poter farla interpretare ad un candidato che possa essere la sintesi della coalizione. Credo, lo ripeto, che questo non sia il tempo dei personalismi, per cui non è neanche il tempo delle polemiche, è il tempo di lavorare. Lo diceva poco fa il sindaco Vasta, oggi occorre grande responsabilità per poter amministrare una città e io devo dire che la scelta del professore Croci la considero un atto d'amore da parte sua nei confronti di questa cittadina, perché oggi è veramente difficile, occorre coraggio, preparazione e anche capacità. Ecco, credo che queste cose si possono realizzare coinvolgendo chiaramente anche tutta la cittadinanza con un programma serio, importante e che possa vedere la partecipazione di tutti quanti. Stare ogni volta a discutere delle piccole beghe che stanno dietro alla presentazione delle candidature, dell'espressione del sindaco, io credo che sia inopportuno e soprattutto non è assolutamente produttivo per i cittadini di Cefalù e per questa cittadina. Innocenzo, diacono. Sì, Pino. Guarda, a me piace una cosa, no? Che è la verità. Perché secondo me in questo periodo in particolare la gente, più che di proclami o del politichese, ha bisogno di conoscere come stanno le cose e di conoscere la verità. La verità è che quello che diceva l'assessore Nasca lo condivido anche buona parte del suo discorso, però il dato è questo, che se ci vogliamo dire come stanno le cose è incomprensibile come un partito come il PDL in questo caso abbia lavorato per tantissimo tempo su una candidatura che era quella di Sgarbi, che è stata pubblicizzata, che è stata annunciata, che è stata tirata indietro, che è stata riportata avanti. È che è una candidatura che soprattutto i ragazzi del PDL, mi piace sottolineare questi ragazzi del PDL, volevano. Non si è concretizzata più questa ipotesi Sgarbi, si è virati sul nome di Croce. Ma fare passare adesso che è nel tavolo delle trattative del cosiddetto centrodestra il nominativo di Croce sia stato un nominativo accettato da tutti e condiviso da tutti, mi sembra che non corrisponda alla realtà dei fatti. Non è stato sicuramente un nominativo su cui tutti sono stati d'accordo, è stato un nominativo che ha creato divisioni, è stato un nominativo che ha creato contrasti e questo è un dato secondo me inconfutabile, che per amore della verità va detto. Il secondo dato, voglio dire che parlando statisticamente, oggi come oggi, non viviamo in un mondo a parte, sappiamo che per tutto quello che è successo negli ultimi anni e nell'ultimo anno in particolare, il PDL nello specifico è il partito che ha perso più consensi in assoluto, mentre i partiti che stanno crescendo sono il Partito Democratico e l'UDC. Tu prima mi accennavi un articolo di Nicola Pizzillo sull'altra Cefalù che parlava di questo. Guarda, io onestamente non escludo che da qui al momento delle votazioni noi, il nostro gruppo e i gruppi con cui abbiamo stretto alleanze noi già, si siederanno insieme al Partito Democratico, perché penso che una cosa va riconosciuta e detta, che in questi, soprattutto negli ultimi 5 anni, i due personaggi che più si sono contraddistinti nella politica cefaludese in positivo sono stati Francesco Calabrese, senza dubbio, e anche Sarola Punzina. Tutti e due si sono impegnati, hanno avuto il coraggio di condurre delle battaglie anche impopolari, per quanto mi riguarda, soprattutto per quanto riguarda Francesco Calabrese, per amore però delle cose giuste. E penso che un riconoscimento a questi due politici locali vada dato. Ecco, io mi rifaccio a questo ultimo passaggio. Assessore Nasca, di fatto Cefalù, che è a vocazione di destra, diciamo così, di fatto in questo momento si presenta divisa, tranne questo tentativo di cui diceva l'assessore Nasca. Noi stiamo cercando una coalizione, l'abbiamo trovata, abbiamo firmato un documento, abbiamo individuato il candidato a sindaco. La sinistra in questo momento, con i nominativi, eppure divisa. Del resto la sinistra già in passato, in diverse occasioni, all'ultimo momento si è presentata divisa, e questo poi ha fatto pagare il conto. Io vi chiedo, assessore Nasca, le chiedo, da qui a quando si presenteranno le liste, continuerete a lavorare affinché si può allargare il raggio delle coalizioni, anche a costo di dover fare qualche passo indietro? Mi spiego. Voi avete il vostro candidato a sindaco, un altro schieramento di destra ha il suo candidato a sindaco, cioè per cercare di presentarvi uniti, c'è la possibilità di avere un unico candidato a sindaco secondo il suo pensiero? Per carità, so che sono delle situazioni sulle quali ancora non avete minimamente discusso. Lei ha utilizzato più di una volta il termine però inclusione, nella scuola per noi è un termine molto importante, inclusione, perché non ha nulla a che fare con l'integrazione, inclusione è cosa ben diversa. Assessore Nasca. Questo assolutamente sì, perché io vorrei ricordare all'amico Innocenzo che il dibattito politico qui a Cefalù io l'ho proprio iniziato con l'UDC, e avevo iniziato un ragionamento che ho fatto a tutti gli altri partiti e gli altri esponenti dei movimenti, nel senso che abbiamo detto: vediamo chi è che può stare insieme per poter esprimere una candidatura a sindaco, una volta raccolto più consensi da più parti per poter stare insieme, esprimiamo il sindaco. L'UDC, bontà loro, ha pensato di esprimere il candidato prima ancora che questa coalizione si formasse, e questo è stato il motivo per cui non siamo riusciti poi a poter iniziare un dialogo sereno. Però è chiaro che noi rivolgiamo, come all'UDC, ma come soprattutto al sindaco uscente, faremo in modo da poter ragionare insieme se ci sono dei momenti di incontro su quelli che possono essere futuri sviluppi sulla candidatura a sindaco, prendendo atto che la candidatura di Edoardo Croci è vero che può avere creato da parte di qualcuno il malumori, ma soltanto in minima parte. È chiaro che è difficile trovare l'ampio consenso del 100%, però io vi posso garantire che all'interno di questa coalizione c'è grande entusiasmo sul professore Croci, anche nel movimento giovanile, soprattutto dal nostro movimento giovanile, che ha attestato note di apprezzamento nei confronti del professor Croce, ma come anche il movimento URB, che ben sapete è formato da tanti giovani e che hanno grande entusiasmo nel proporre e portare avanti il progetto e il programma del professor Croce. Sì, io poi le devo dire che anche stamane ho letto su CRM, proprio sui nostri giornali telematici, da parte dei giovani, la condivisione di questa candidatura appunto del professore Croci, e quindi questo è un fatto importante. Io sì, no, vi devo fare intervenire, no, ma vi faccio intervenire perché l'argomento, come dicevo prima, è molto... ma molto delicato, perché noi possiamo fare 100.000 discussioni, ma ci dobbiamo rivolgere agli elettori, e in questo momento io sono cittadino cefaludese, io sono un pochino disorientato, io, molti altri magari avranno le idee chiarissime, ma poi alla fine sarà il popolo con la decisione sovrana andare a individuare chi sarà il sindaco e chi andrà a governare la nostra città per i prossimi 5 anni, fermo restando che non si può sbagliare. Se Cefalù sbaglierà i prossimi 5 anni, nel senso in termini di rilancio, per carità, io non faccio considerazione per l'amministrazione e Guercio, ma adesso dobbiamo parlare di rilancio. Una domanda semplicissima. Franco Calabrese è un'altra persona che, come è stato detto poc'anzi, unitamente a Saro Lapunzina e ad altri, si sono spesi, ad altri anche che c'erano prima, si sono spesi per portare avanti. Calabrese è un candidato che è passato da diciamo da un partito ad un altro, poi si è fermato nell'UDC. Ecco, questo fatto fa riflettere, io ribadisco la stessa domanda. In questo momento, ma non vale solamente per l'UDC, vale per tutti. È importante la figura del sindaco o è importante il programma da portare avanti? Perché poi una figura sola, capisco che la testa contagia sempre il corpo, per carità, ma di fatto senza una squadra, senza un gruppo, senza delle finalità ben precise, senza delle persone, guardate che l'esperienza Guercio, l'esperienza Guercio ha un significato ben preciso, non ci dimentichiamo quella foto di Piazza Duomo, il dottore Guercio, sindaco della città di Cefalù, aveva accanto tantissime persone, ma sta arrivando invece con pochissime persone accanto. Innocenzo. Sì, quello che dici tu, Pino, è senz'altro vero. Il programma è più importante della figura del candidato sindaco. Però, sempre essendo sinceri, quando in politica, in campagna elettorale, si parla di programma, si fa tantissima demagogia. Sono tutti bravi a preparare un programma populista che la gente legge e lo condivide. Sfido chiunque a presentare un programma impopolare durante la campagna elettorale. Quindi il rischio di parlare tanto di programmi a vuoto esiste ed è un problema secondo me concreto, ed è un problema che io individuo in chi ancora oggi non ha le idee chiare sul suo percorso politico, sull'eventuale candidatura a sindaco. Noi è da un anno che lavoriamo sul programma, coinvolgendo i giovani nel processo decisionale che riguarda il nostro partito, per cercare di realizzare qualcosa di concreto. Ed è questo, guarda, lo dico sinceramente, la mia esperienza con la politica nasce nel momento in cui ho avuto la sensazione che il partito in cui stavo entrando, i miei referenti provinciali, regionali e anche nazionali, non imponessero nessun tipo di scelta per quanto riguarda le questioni cittadine. Io ora, oggi come oggi, questo non mi sento di poterlo dire anche per gli altri partiti, perché secondo me quello che è successo, fuori di metafora, è stata la prova concreta che ancora una volta, e questo lo ripeto perché secondo me è un mio personale parere, ma per me è così, è ancora una volta Palermo che decide. Per quanto riguarda quello che diceva prima l'assessore Nasca, è vero che con lui avevamo instaurato un dialogo già tempo fa, ma è altrettanto vero che la candidatura di Francesco Calabrese, come noi abbiamo sempre ripetuto, è una candidatura aperta, tant'è vero che gli accordi che noi abbiamo chiuso e le alleanze che abbiamo già fatto sono stati accordi che si sono raggiunti mettendo sul tavolo la candidatura e valutando le altre candidature che c'erano. Questo era il processo che noi abbiamo instaurato durante le nostre trattative e che avremmo instaurato anche nel cosiddetto tavolo del centrodestra cefaludese. In quel tavolo l'UDC non è stata invitata non per una questione di candidatura presentata eccetera, non è stata invitata perché erano presenti certi personaggi che non hanno condiviso il nostro progetto e che hanno cercato di farci fuori da quel tavolo, ma da quel tavolo siamo noi che ci sottraiamo in primo luogo, perché quella è la dimostrazione, lo ripeto ancora una volta, del vecchio modo di fare politica. Mentre per quanto mi riguarda, io avevo scritto un comunicato e concludo, avevo scritto un comunicato sabato su Cefalù News, noi abbiamo aperto invece a un tavolo dei moderati che volessero dialogare con noi e anche con ovviamente gruppi con cui noi abbiamo stretto alleanze, mi rivolgo anche al PID per esempio. Sono due modi di intendere. Loro hanno scelto prima il candidato e poi hanno cercato l'alleanza. Noi prima abbiamo cercato l'alleanza e poi abbiamo scelto con un pari opportunità per tutti il sindaco. Assessore Nasca, entriamo proprio nei meriti della situazione, perché voi già avete individuato il candidato a sindaco, adesso dovete individuare altre figure che affiancheranno il candidato a sindaco. Noi stiamo vivendo una situazione nazionale che col Premier Monti, un tecnico con accanto altri tecnici, quindi persone di spessore che possono portare. Per me personalmente, ecco, deve essere sempre la democrazia a governare una nazione, con persone giuste al posto giusto e con persone che veramente dimostrano non solo onestà intellettuale, perché purtroppo siamo arrivati al punto in cui siamo arrivati perché magari in passato le scelte sono state talmente dannose che per cercare di riprendere la situazione adesso lo si sta facendo esclusivamente con un governo di tecnici, anche perché sono convinto che la riforma delle pensioni poteva essere fatta pure prima, quando c'era il governo politico, però con un governo di tecnici adesso tutto sta venendo più agevole. So che lei se ne deve andare, le chiedo, e questa è l'ultima domanda, quando nella coalizione andrete a individuare quelle figure che poi formeranno la squadra, il suo pensiero personale io desidero, perché lei è stato gentilissimo, si è espresso come coordinatore cittadino, ha detto la sua e dal mio punto di vista è chiarissimo. Io le chiedo, secondo lei, quali criteri si debbono adottare per cercare di formare la squadra da presentare alla cittadinanza di Cefalù per andare a chiedere voti? Io dico che occorre il criterio del buon senso, nel senso che noi abbiamo individuato un candidato sindaco di grande spessore, di grande capacità e preparazione, e quindi faremo in modo di poter comporre una squadra di governo che sia compatibile con il professore Croci. Cosa significa compatibile? Occorreranno delle professionalità che vorranno spendersi su questo territorio con competenza e disponibilità, e quindi poi cercheremo di coalizione di vedere quali sono le espressioni migliori per poter affiancare il professore Croci, ripeto, in questo difficile compito. E credo che se voi andate sul sito del professore Croci probabilmente capirete tanto di quello che è la sua progettualità sulla cittadina, e credo che sarà importante. Io credo che i cittadini cefaludesi avranno modo di apprezzare le qualità e la bontà del professore Croci. Quando La Lega non ha avuto però questo tipo di disponibilità nei riguardi di Croci, perché gli ha fatto una battaglia notevolissima anche per alcuni provvedimenti. Cioè, io le voglio dire, stiamo discutendo, siamo su una linea di pensiero, sì. Per carità, siccome lei ha parlato del sito, io mi sono andato a leggere, a prescindere dal fatto che ripeto, come è stato ricordato più volte da parte della signora ci sono delle origini cefalutane, perché Verderame sono però veda, dobbiamo mettere anche questo aspetto, che c'è stato un momento della vita politica del professore Croci, vita politica sto parlando, non discuto la persona, in cui ha avuto dei problemi della Lega, ha dovuto lasciare, poi si è presentato con una lista che ha preso 3.000 voti a Milano e lui non era candidato in lista, ha sostenuto nuovamente la Moratti, quindi sicuramente anche queste situazioni vanno messe a fuoco quando parliamo dei pregi di una persona, ma ci sarà stato qualche cosa che non ha pure funzionato. Non dico che la Lega aveva ragione e il professore Croci aveva torto. L'Ecopass, cose, provvedimenti di questo genere. Guardi, io credo che il curriculum del professore Croci parli da solo su quello che il professore Croci sulle sue capacità e sulla sua professionalità. Io ribadisco il concetto, noi di questa coalizione vuole presentare un progetto di qualità alla città di Cefalù, vogliamo presentare una squadra di governo che sia fatta di persone di qualità. Il professore Croci sarà la massima espressione, ma vogliamo fare anche una squadra di governo che possa essere all'altezza e possa in qualche modo rilanciare le sorti di questa meravigliosa cittadina a cui tutti siamo affezionati. Io la ringrazio non solo per la sua presenza, ma so che lei doveva andare via prima. Un pochino ha accettato tutte le situazioni che si sono prospettate. Le posso chiedere scusa, ma avevo pensato un certo tipo di trasmissione che, le ripeto, a seguito delle notizie che abbiamo avuto tra ieri e anche stamattina, ho dovuto un pochino improvvisare stamane nel senso di scaletta, ma non certo nel senso dei contenuti, perché abbiamo potuto capire il suo pensiero e soprattutto l'abbiamo fatto capire ai radioascoltatori, quello dell'onorevole Terranova. C'è Ciccio Dolce al telefono, che noi ascolteremo adesso subito, quello di Innocenzo, quindi io posso soltanto salutare lei, ma Innocenzo ancora deve restare. Ascoltiamo Ciccio, buongiorno. Buongiorno professore, Ciccio, a tutti presenti alla CRM Adonie. Sì, Ciccio, ti avrei anche invitato, ma ho preso visione del documento solamente ieri in tarda serata, quindi la tua presenza... No, non ti preoccupare, a me mi necessita precisare solo due cose. Sì. Primo, 5 anni fa non ho preso 1.000 voti, ma 1.980, che sono abbastanza per una candidatura come è nata. Poi volevo precisare che noi di Alleanza per Cefalù non abbiamo messo nessun veto perché l'UDC partecipasse all'incontro con gli altri, ma anzi al contrario, abbiamo fatto sapere tramite una persona del comitato provinciale dell'UDC che eravamo e siamo disponibili sempre a qualsiasi confronto e dialogo, non ci siamo mai tirati indietro. Se ci sono persone che sono state escluse dal dibattito, che non hanno avuto la possibilità di esprimere né un progetto né quello che intendevano fare per la città, siamo noi. Noi siamo una forza aperta, libera, democratica, e il nostro compito, lo stiamo dimostrando, è solo uno, quello di lavorare per questa città. Un'altra cosa volevo precisare. No, Ciccio, scusami, te la faccio precisare, però guarda, siccome ho i numeri in mano, poi le andremo a controllare. Allora, Giuseppe Guercio 4.828, Salvatore Curcio 2.008, Domenico Dolce 1.657, Augusto Cesare 782, Salvatore Di Giorgi 302. Poi nella correzione, scusa, sì. Poi nella correzione verbale dei verbali sono arrivato a 1.800 e qualche cosa. Va bene, non Ciccio, è importante questo. Non è importante. Poi l'altra cosa che volevo precisare rispetto al professore Croci è un'altra. Il professore Croci è stato messo fuori dalla Moratta per una battaglia civile che ha fatto a Milano. C'è stato il referendum sulla tassa di ingresso delle macchine nel centro storico a 5.000 euro. Il referendum è stato vinto al 90%, ci hanno votato gli ecologisti, la sinistra e tutti, l'esclusione della Lega. La Lega, per vendicarsi di questa minoranza che è stata messa nella città, ha chiesto la testa di Croce. E quindi è un candidato che sul piano politico si batte anche contro quelli che sono i principi della Lega. Ciccio, scusami, è una precisazione. Ciccio, con te mi posso permettere. A noi quello che ha fatto la Moratti non interessa, a noi interessa quello che farà la città di Cefalù. Noi abbiamo scelto Croce perché sappiamo e siamo convinti che può essere una occasione per la città di Cefalù. Bravo. Per la sua preparazione, per la sua moralità, per il suo impegno e per la sua socialità rispetto che ha con le persone e con la città. Ecco, non te ne andare è perché... È conoscitore della città perché da anni, da decenni a questa parte, ogni anno viene a Cefalù e parla con tanti dei problemi della città. Allora non te ne andare, adesso ascolta, perché Innocenzo sicuramente, io devo salutare, assessore, la ringrazio per grazie questa mattinata che ci ha dedicato. Grazie e guardi, voi. La voglio salutare in un modo, si continua a interessare dello sport, perché al di là della qualunque veramente è un momento di vita per chi ci crede in quelle iniziative sane che dobbiamo portare avanti. Grazie assessore. Grazie a voi, ciao Ciccio. Grazie assessore Nasca. Ciao, Ciccio, ciao. Non te ne andare a questo punto. No, ti lascio il numero di telefono perché ho il telefonino. Ah, ho capito. Allora, alla regia, per favore, alla regia, perché c'è Innocenzo che deve precisare qualche cosa. Innocenzo. Innocenzo Iacono. Sì, io volevo dire semplicemente questo, che mi sembra assurdo a me parlare dire noi avevamo fatto sapere tramite un rappresentante. È chiaro, il signor Doccio è stato presente anche alla nostra sede, a delle nostre riunioni. È chiaro che nel momento in cui si vuole invitare un tavolo si convoca il coordinatore cittadino del partito e si invita senza fare giri per passare province, segreterie e regioni. Questo fa capire che già c'è qualcosa che non va. Io penso onestamente che sia anche lecito dirlo, che secondo me il signor Dorce era più interessato al PDL che all'UDC e ha fatto la sua scelta, ma non, io rifiuto assolutamente che si accusi l'UDC di non essere stata un'entità che ha proposto partecipazione, confronto e dialogo, perché noi lo abbiamo sempre fatto. Abbiamo un'altra diretta, ecco, dobbiamo ascoltare. Assessore Patanella, buongiorno. Buongiorno Pino, buongiorno. Allora, già lei sa cosa pranzerà, cosa le hanno preparato. No, oggi sono invitato da amici e sono qui a Palermo. Ho capito. Quindi dica assessore, perché lei... No, io ti chiamavo, sì. Intervenivo semplicemente per, in qualche misura, se era possibile, aiutare il dibattito per Cefalù. Sì. Tu sai che io ho detto, e così sarà, non sono candidato. Ciò non significa che come amministratore di questa città l'esperienza che ho maturato non abbia il dovere in qualche misura di raccontarla. E allora io mi domando, io vedo tante persone che si affanno a cercare coalizioni e a parlare di programmi, e però tuttavia non capisco quando entreranno nello specifico di questi programmi. Cioè, la domanda che io ti faccio, io sono arrivato a Cefalù il 4 novembre, la faccio a te e ai tuoi ospiti studio, sì. E c'erano 18 capi servizio al comune di Cefalù. Grazie a Francesco Calabrese, al Consiglio Comunale, a tutti i consiglieri che si sono battuti per una revisione della macchina burocratica che poi faceva parte del programma di Guercio, si è arrivati a 12 capi servizio. E però i 12 capi servizio oggi si trovano sovraccaricati di responsabilità e di lavoro, tanto per esempio, per citare un nodo della polemica che sicuramente ci sarà, l'ingegnere Duca essere il più sovraffaticato di tutto, perché racchiude su di sé tutte le deleghe dai lavori pubblici ai lavori forse la linea è andata via, ecco, non so se la regia può. Non so se la regia, se mi ascolti, se ti puoi fermare, noi interrompiamo intanto, perché Innocenzo, ecco, noi non lo so se adesso ci sarà la possibilità di riascoltare Ciccio Dolce, perché così si è pronunziato, tu ti sei pronunziato. Io ribadisco quello che una domanda ricorrente, sicuramente fatto il mosaico ci si deve rivolgere agli elettori. Ecco, voi come vi rivolgerete agli elettori? Vediamo se possiamo mandare la diretta, perché forse nuovamente desiderava completare il suo pensiero l'assessore Patanella. Ciccio, ecco, Ciccio, ci sei? Sì, ci sono, sì. Ecco, perché abbiamo tante telefonate, non può fare altro che piacere che la trasmissione è molto seguita, anche se l'ora è tarda. Grazie a te, professore. Per carità. Ciccio, ascolta che sta appunto, non so se hai ascoltato l'intervento, non è per fare un duetto, assolutamente. È assolutamente per chiarimenti, perché guardate, sì. In questi momenti noi siamo animati dalla, ecco, dalla bontà di creare unità, non di distruggere. Ecco, e l'augurio che ci rivolge a tutti è quello di andare a individuare persone giuste al posto giusto. Bravo, e che possono, e che possono veramente portare avanti e risolvere certe problematiche della nostra città di Cefalù. Poi il resto, credetemi, al di là delle sigle penso che Cefalù non potrà sbagliare a individuare le persone giuste. Innocenzo, speriamo di sì. Innocenzo. No, io avevo già rivolto il mio pensiero al signor Dolce, volevo sapere lui cosa ne pensava di quello che avevo detto. Intanto sono due generazioni diverse. Ciccio Dolce, da tantissimi anni in politica, è un giovane che si affaccia in politica. Ciccio, parlare... come vedi questo confronto? Tu ti senti sempre giovanissimo, vero? No, senti, io ho sentito parlare di idee giovani e di idee vecchie. Io sono disponibile a qualsiasi confronto, a partire dai 18enni, arrivare a quelle della mia età. E stai tranquillo che per quello che mi è successo in questo periodo, per gli incontri che abbiamo avuto con i giovani, credo che mi sono trovato più in comunione con la gioventù che con quelli che possibilmente hanno veramente le idee vecchie. Quindi questa accusa non mi tange assolutamente, rimango tranquillo perché so che... il mio compito è quello di non distruggere, ma di creare, e di creare anche rapporti umani diversi, perché la società nostra, quella cefaludese, è lacerata da divisioni, da odi, invidie. Personalmente ho pagato le conseguenze, e proprio per questo ritengo che dobbiamo fare tutti un passo indietro nel dialogo, nel considerare la politica e chi appartiene in un altro schieramento, in un altro partito, non un avversario da battere, ma un avversario da dialogare e confrontarsi. Questa è la mia posizione, è stata la mia storia e vorrà anche continuare ad essere in questo momento. Ciccio, scusami. Scusa e finisco. Il nostro invito all'UDC non era formale e non è formale. Non è passato tramite la segreteria provinciale, ma attraverso una persona cefaludese che si è presentata ed abbiamo risposto la nostra disponibilità al dialogo e al confronto. Ma se in ogni caso è necessario che noi lo facciamo ufficialmente con il segretario, ufficialmente da questo momento io invito il segretario dell'UDC a un dialogo e un confronto per chiarire le varie posizioni e per trovare ancora, se possibile, un momento di sintesi e di accordo. Ciccio, scusami, ecco, perché con te e noi dovremmo fare più di una trasmissione, però dato che hai tracciato un passaggio dove dici io ne ho parlato in prima persona. E Ciccio, tu sei un personaggio politico cefaludese, sei stato in Forza Italia, sicuramente qualche cosa non è andata nelle elezioni di 5 anni fa, perché... Vabbè, ormai è tempo passato, dobbiamo guardare al futuro. Allora guardiamo al futuro, Ciccio. Ma durante questi anni dove siete stati, Ciccio, durante questi 5 anni? Ora ti dico una cosa, dove sono stato io ho rispetto per la volontà popolare. La volontà popolare ha votato Guercio e per 5 anni non me la sono sentita di fare nessuna critica, perché volevo, proprio perché ero un vecchio amministratore, non intervenire per dire quanto c'ero io, perché l'errore più grande che fanno i politici è dire quanto c'ero io. Io ho voluto rimanere in disparte proprio perché è nel rispetto della volontà popolare. Ha votato Guercio aveva il dovere di rimanere tutti e 5 anni. Ma io dico, questa domanda va fatta a tutti coloro i quali hanno votato Guercio, e nel corso del tempo Guercio, come hai detto poco fa, si presenta in campagna elettorale con un solo consigliere rispetto a 13, uno in più di quello che la legge assegna 12-8. È la prima volta che nel Consiglio Comunale la maggioranza ne ha avuto 13 e l'opposizione 7. Quindi eccomi, questa è la domanda che si deve porre la città. Cosa è successo in 5 anni? Perché sono cambiate tante amministrazioni sul piano politico e sul piano anche consiliare? Quindi quello che posso dire è che io, proprio perché vecchio amministratore, non ho voluto criticare minimamente, non sono voluto entrare nei problemi, anche perché non appartenente a nessuna forza politica, sono stato libero e indipendente, parlare a titolo personale non è una cosa che mi è congeniale. Uno deve parlare in nome di gruppo o in nome di persone, perché quando si parla a livello personale può essere caratterizzato dal fatto che dice parli perché, per vendetta, per spirito di contraddizione e così via. Ho preferito dedicarmi ad altro, ma stai tranquillo che la politica nel sociale, nell'incontro con la gente, l'ho sempre fatta. No, Ciccio, io la mia domanda non andava fraintesa, non mi rivolgo alla persona, io mi rivolgo al partito di Forza Italia. No, ma io non faccio parte. Non fai parte, però da politico hai contribuito a fare scendere in campo, perché i voti ci sono stati 1900, 1700, 1800, probabilmente le aspettative sono deluse. Non voglio parlare del passato, ma sono state elette in Forza Italia delle figure che poi hanno sostenuto Guercio, Sicchetti, allora, Simpliciter. Dove dobbiamo rifare gli stessi errori, Ciccio? Scusa, te posso dire una cosa? Sì. Io non eri presente a una trasmissione che ho partecipato a CRM Madonie, e ho detto, se vuoi la ripeto, se coloro i quali durante la campagna elettorale hanno voltato le spalle a Forza d'Italia e quindi li ho perdonati, come si vuol dire, nello stesso tempo, proprio perché vedo e dobbiamo guardare al futuro, perdono anche con difficoltà coloro i quali, pur essendo nella nostra lista, è stata eletta nella nostra lista, e la responsabilità ce l'ha anche il sindaco, alla fine hanno preferito l'accordo individuale e non l'accordo in rappresentanza dei 1800 voti. Questo è stato un errore madornale che coloro i quali, e tutti i consiglieri comunali che provenivano dalla lista dove io ero candidato, hanno sostenuto fino ad oggi, mi pare che il vice sindaco è così, Guercio. Io non dico che non lo dovevano fare, non si doveva fare, ma doveva essere frutto di un incontro politico che rappresentasse la volontà di 1800 persone, non la volontà singola. Allora, anche questa è chiusa, perché dobbiamo guardare al futuro. Ma senza Ciccio, Ciccio, dimmi, professore. Bisogna guardare al futuro, caro senza Ciccio, dubbio, individuando futuro. Persone giuste e senza inciuci. Perché c'è Falù? Io sono proprio per questa linea, per la linea di chiarezza. Noi con molta lealtà e con partecipazione, partecipando direttamente, abbiamo individuato il professore Croce, perché gli riconosciamo delle alte qualità e delle possibilità per rilanciare il paese. Io ti ringrazio, volevo farti un'altra domanda, Polizzi Castellana, ma la rimando in un'altra occasione. Mi è dispiaciuto che questa unione che c'era, forse riguarda la crescita delle due comunità. Se hai letto una mia dichiarazione su questa decisione del Consiglio Comunale dei Polizzi, è una decisione che ho criticato aspramente, perché in un momento in cui si devono unire i comuni per economicizzare e migliorare i servizi, c'è una divisione, c'è qualche cosa che non va. Ciao Ciccio, grazie e buon pranzo, ascoltaci. Ciao, grazie, buon pranzo, saluti a tutti. Ciao. Grazie, ciao Ciccio. Ciao. Vito Patinella. E allora, noi avevamo interrotto una telefonata, io chiedo scusa ai radioascoltatori, ma proprio vorrei anche continuare ascoltando Patanella, ascoltando poi in conclusione Innocenzo Iacono, per così avviarci alla conclusione. Grazie Fabio, sei sempre eccezionale, sei stato in regia, lo so che l'abbiamo fatta lunga, ma poi quando questa trasmissione verrà riascoltata, intanto lunedì con inizio alle ore 13:15 circa, ma anche mi auguro durante la settimana, ecco, mi auguro che ci sia un contributo per coloro i quali seguono le varie vicende. Assessore Patanella. Pronto? Ci stiamo arrivando, sì, perché... Sì, io Vito, desidero che tu concludi il pensiero, ovviamente, sì. E aggiungo una domanda. Ma tu sì. Con chi stai? In che senso? In questo momento sono in macchina con mia moglie. Ecco, mi saluti la signora che è la cosa più simpatica. Ma ti voglio dire, per le iniziative del 2012 a Cefalù, tu con chi stai? Allora, guarda, io ti posso dire questo. La mia posizione, che è una posizione per quanto riguarda Cefalù, è assolutamente personale e irrilevante ai fini del comprendere con chi sto. Io posso raccontare la mia esperienza e capire come altri possono in qualche misura giovarsene o criticarla, evidentemente. Poi la mia storia politica in questo momento è con il Cantiere Popolare, lo è impegnato fortemente su Palermo, tu sai che io sono palermitano. Sono stato chiamato a Cefalù con un ruolo tecnico e spero di averla assolta al meglio. Il ragionamento che io ti volevo fare, e per questo non volevo entrare nella politica, quanto piuttosto nei fatti, che la politica poi si trova in qualche misura a preordinare per i cittadini. Avendo fatto questa esperienza amministratore, dico che il comune di Cefalù ha tutta una serie di difficoltà, dalla macchina burocratica fino a quelle più conosciute, che sono quelle di carattere economico, che se non vedono in questa campagna elettorale, chiunque si impegnerà a affrontarla nel tema specifico, il rischio che si corre è che, tu poco fa parlavi di una fotografia del sindaco Guercio, che parte con 101-112 persone e oggi tu dici si ritrova solo un consigliere comunale. Io non sono d'accordo con questa visione, ma è un fatto, ripeto, mio personale. Ritengo che buona parte della città abbia compreso le difficoltà che ci siano state nell'amministrare il comune e quanto il dottore Guercio, il sindaco di questa città, ami Cefalù e si sia speso per questo. Ma questo è un argomento che bene avrete modo di affrontare con lo stesso candidato. Volevo dirti però che ci sono 3-4 nodi insoluti e per i quali si è lavorato, ma occorre più tempo, sui quali vorrei capire da destra come a sinistra come poterlo affrontare. E sotto questo profilo io chiedo per esempio all'UDC, che correttamente poco fa ha detto, l'altro giorno nel comunicato apprezziamo il fatto che il sindaco Guercio sia pronto a mettersi in discussione per amore di questa città, in qualche misura condividendo quando ti dicevo che ama tanto i cefaludesi, e sediamoci. Ma sedersi significa ragionare sulle cose importanti. Guarda, le prossime elezioni vedranno 4 assessori. Noi eravamo 6, io avevo 3 deleghe importanti come turismo, spettacolo e affari legali, ed è difficilissimo, non solo perché ero di Palermo, ma anche stando presente 24 ore al giorno al Comune di Palermo, occuparsene. Immagino che chi seguirà la mia carica avrà 6 deleghe e sarà davvero, se non hai un programma nei fatti già portato sul tavolino, difficile amministrare la città di Cefalù. Allora in questo senso dico al centrodestra, perché il centrosinistra evidentemente fa le sue scelte corrette, politiche e democratiche, non le discuto, ma dico al centrodestra, prima ancora di discutere sul candidato sindaco, quasi seguendo l'esempio che è stato quello di Pippo Guercio, che pur essendo sindaco avendo il dovere di chiedere agli elettori un voto sul suo lavoro, sedetevi su 5 punti, e sono quelli 5 punti che devono essere messi sotto la lente osservatoria degli elettori. E 5 punti non possono essere generici: tutti vogliamo il turismo, tutti vogliamo la destagionalizzazione, tutti vogliamo le strade pulite. Non è questo. Quali sono i primi 5 punti che nei primi 100 giorni chiunque sia il sindaco, io preferisco dire la squadra, va ad affrontare, e su quelli misurarsi e utilizzare le esperienze di tecnici, perché tale io per esempio considero Croci, per affrontarle, ma con la logica politica con la P maiuscola, cioè quella del servizio, dello spirito del servizio nei confronti di cittadini. Grazie Vito. Questo è l'invito che io sento di farti, scusa se vi ho annoiato, no. Ma come mia esperienza pensavo che era doveroso mettere. Grazie Vito, buon viaggio, non so dove stai andando, e buon pranzo. Bene. E allora noi abbiamo un'altra telefonata, metteremo in contatto Calabrese. Io faccio un invito, siccome sicuramente mi starà ascoltando Rosario Lapunzina. Allora Rosario, io sicuramente chiuderò la trasmissione alle 13:29. Se ritieni opportuno salutarci ed esprimere un tuo breve pensiero, mi faresti tra l'altro cosa gradita, perché stamattina, come dicevo prima, tutte queste notizie che si sono susseguite in diretta non mi hanno consentito e non mi consentono tra l'altro di sentire la voce del candidato a sindaco del PD. Sto sentendo la voce del candidato a sindaco dell'UDC, appunto Francesco Calabrese, che saluto affettuosamente. Francesco, buongiorno. Buongiorno Pino, buongiorno a tutti. Ma vedi com'è movimentata questa trasmissione? Io mi aspetto la telefonata anche di Rosario Lapunzina, detto Saro per gli amici, così chiudiamo alla grande. Vai, vai Francesco. Sì, intanto dicevo buongiorno a tutti, buongiorno a tutti i tuoi ospiti e radioascoltatori. Io volevo semplicemente intervenire non per, come dire, mettere un po' benzina sul fuoco, ma proprio in virtù di quello che diceva Innocenzo, cioè per la chiarezza e per la verità che bisogna dare a questa città e soprattutto alla campagna elettorale che ci apprestiamo ad affrontare. La questione del gruppo Dolce. E allora, Cicco Dolce ha detto delle cose che ancora non corrispondono al vero, atteso che proprio lui è stato una delle prime persone che nella lontana estate, a questo punto lontana, estate del 2011, io contattai per spiegargli un po' qual era il nostro progetto, e lui inizialmente si dimostrò molto interessato a questo progetto. Poi evidentemente nel corso delle numerose riunioni che si sono fatte ho intuito, e non solo io ma anche tutti gli altri amici che sedevano attorno al tavolo di queste riunioni, che il progetto di Cicco Dolce e di altri amici come anche i Cortina era diverso, ed era un progetto che, come ben ha detto Innocenzo Iacono, portava verso il PDL. Io vorrei semplicemente sottolineare questo aspetto, cioè ci sono stati in questa nostra città decenni di amministrazione che evidentemente ha visto protagonisti questi soggetti, ragione per cui se di fallimento della politica e anche dell'amministrazione in questi decenni si deve parlare, non c'è dubbio alcuno che costoro sono stati un po' gli artefici di questo fallimento, se fallimento c'è stato. Io penso invece, così come ben ha detto Innocenzo, che bisogna parlare ai cifaludesi con molta chiarezza, con molta verità, dicendo quali sono come dire, le cose che si vogliono fare. E dire la verità significa dire ai cittadini che non si possono promettere castelli, non si possono promettere cose demagogiche, figlie della vecchia politica. Parlare con verità significa che la situazione in cui ci troviamo è disastrosa, una situazione per la quale occorre uno sforzo comune da parte di tutti. Ecco perché ci vuole un cambiamento culturale. A me fa quasi ridere nel momento in cui sento dire da chi è intervenuto in questa trasmissione che si parla di unione, si parla di unità. Ma quale unità? Ma quale unione? Se nel cosiddetto tavolo di centrodestra sono già usciti nell'arco di 24 ore due nominativi rispettabili, ma di quale unione stiamo parlando? Ma dico, vogliamo prenderci in giro? Vogliamo ancora prendere in giro i cefaludesi? Io non ci sto a questo gioco, così come non sto al gioco di chi sostiene che la mia candidatura era una candidatura blindata, prendere o lasciare. Non è vero, l'ho detto dal primo momento e continuo a ripeterlo anche attraverso i microfoni di Cefalù Radio Madonie, che la mia è e rimane una candidatura aperta al confronto con le altre realtà politiche. Se poi mi si quindi, chiede, scusami, ma tu sei interessato, Francesco, al PDL? Io ti dico, non sono interessato, Francesco, al PDL. Scusami, allora tu la pensi come me che ci può essere il sindaco, qualcuno potrebbe fare il vice sindaco, qualche altro potrebbe fare l'assessore, quindi praticamente questo potrebbe succedere da qui alla presentazione delle liste? Io penso che potrebbe succedere, certamente, ripeto, come ha detto Innocenzo, noi non siamo interessati a un discorso come quello che ha fatto Michele Nasca, perché Michele Nasca, persona che io rispetto perché bene ha fatto come assessore allo sport alla provincia, che continua a fare bene il suo lavoro anche da commissario, perché nel momento in cui lui dice che ha avuto il mandato di riunire tutte le anime del centrodestra, io dico che non sono stato mai invitato nel tavolo di questo centrodestra, ma non perché l'UDC avesse il suo candidato, perché ripeto, anche i sordi e i bambini sanno che la candidatura di Francesco Calabrese era una candidatura aperta al confronto con le altre realtà politiche, quindi è inutile che ci prendiamo in giro. Probabilmente Francesco Calabrese dà fastidio per quello che ha come dire, fatto in questi ultimi 5 anni in consiglio comunale, dicendo le cose come stanno, parlando di cose, come diceva Innocenzo, impopolari. Francesco Calabrese probabilmente sarà scomodo a un certo modo di fare politica. Ebbene, Francesco Calabrese andrà fino in fondo insieme a tutta la sua squadra squadra e tutti gli alleati che già ci sono. È ovvio che evidentemente tutto questo discorso va fatto in un tavolo come dire, con tutte quelle realtà politiche, sociali, economiche che si ispirano in qualche modo alla moderazione, quindi un discorso fatto al centro. Un'ultima analisi. Brevissima, Francesco. Brevissima, concludo. Poco fa si era detto che Francesco Calabrese era saltato un po' da una parte all'altra. Qualcuno dimentica che Francesco Calabrese nasce come candidato della lista di Alleanza Nazionale, con Augusto Cesare sindaco. Il nostro presidente Fini ci portò a quel tempo nel PDL. Benissimo, nel PDL noi scegliemmo Gianfranco Micichè, abbiamo condotto le nostre battaglie anche in consiglio comunale con Gianfranco Micichè, adesso sono all'UDC. Non vedo quali possano essere le accuse che mi si muovono in questo senso, atteso che chi mi conosce è come persona, ho 43 anni, è come uomo politico della strada, tra virgolette, non c'è dubbio che sa che sono sempre stata una persona moderata, ragione per cui questo discorso che si porta per cercare di denigrare la mia persona in qualche modo non sta né in cielo né in terra. I cittadini devono scegliere le persone per i fatti, per quello che hanno fatto e per quello che propongono alla città, sempre con trasparenza e verità. Tutto il resto sono chiacchiere della vecchia politica decisa a Palermo. Una sola precisazione: nessuno ha parlato di salto in banco. Ecco, questo, no, vabbè, questo, questo puntualizziamo. Però, caro Francesco, siccome da qui al 4 di maggio ne sentiremo di tutto e di più, questa è solamente una constatazione dei fatti, si parla di passaggi, non si parla del resto. Perfetto, ma ci si conosce, ci si... per quello che sono. Almeno a Cefalù ci si conosce un pochino tutti. Non è giusto, dubbio. Francesco? Non c'è dubbio, Pino. Buon pranzo, ciao. Anche caro. A te, buona domenica a tutti, arrivederci. Grazie. Allora, Innocenzo, se la Punzina non telefona, ecco, sta chiamando, mi dicono, ecco, se tu così non manca nessuno. Così, se tu desideri dire qualche cosa, no. Anche se Francesco no, io condivido appieno le parole di Francesco, e secondo me chi ha ascoltato oggi la trasmissione si rende conto di cosa significa parlare di Cefalù da parte di un cittadino di Cefalù che ama la sua città, e parlare chiaro ai cittadini di Cefalù, e chi invece ci viene a riproporre ogni 5 anni, ogni 10 anni, quello che sia, un qualcosa che a Cefalù e agli interessi di Cefalù, alle lotte che si devono fare per Cefalù, sicuramente non contribuirà. Ecco, la differenza è che secondo me i cittadini, i cefaludesi, si devono rendere conto delle persone che amano questa città e che si stanno spendendo e si sono spese per questa città, e Francesco è una di queste persone. Ecco, noi ci avviamo alla conclusione, stiamo cercando proprio questa ultima telefonata in diretta, se possibile, caso contrario volevo chiudere proprio con una domanda. Fai parte della nuova generazione, di coloro i quali debbono guardare sempre più in là, ma anche per la vostra posizione di giovani, anche per la vostra posizione di persone che sicuramente a Cefalù dovete battervi per un futuro. Ecco, al di là dello schieramento politico, tu che sei a contatto con i tuoi coetanei, in questo momento c'è interesse, c'è disinteresse, c'è apatia, c'è abulia, c'è i giovani, cosa sta avvenendo? Allora, guarda Pino, senza dubbio il mondo giovanile oggi è disinteressato alla politica, io ne capisco anche le ragioni e le motivazioni, però secondo me, tu mi parli di realtà giovanile cefaludese, secondo me il dato più importante e più allarmante che dobbiamo tenere in considerazione è che oggi Cefalù sta perdendo i suoi giovani. È una città che perde i suoi giovani, una città senza futuro. Questo è un tema che va affrontato nella prossima campagna elettorale. Ci sono tantissimi coetanei che si sono laureati e sono andati via da Cefalù. Cefalù così perde il proprio futuro. Questo è un dato preoccupante, secondo me. Ecco, noi chiudiamo questa trasmissione del 4 marzo 2012 con un altro candidato a sindaco, Rosario La Punzina. Rosario, buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno agli ospiti, buongiorno ai radioascoltatori. A me dispiace moltissimo perché io non ho ascoltato la trasmissione, per cui mi scuso del fatto che magari intervengo senza poter, diciamo, interloquire con gli ospiti che tu hai lì rispetto alle cose che hanno detto. Io... Rosario, ti faccio io la domanda, così ti metto in carreggiata. Bene, con bene. Domani saranno 7 i candidati a sindaco, oltre al professore Edoardo Croci, probabilmente domani ci sarà la candidatura di un professionista cefaludese. Ecco, tu come vivi e come vedi questa situazione dei candidati a sindaco che aumentano da settimana a settimana? Ma senti, è una situazione preoccupante rispetto a quella che è la situazione del comune di Cefalù e rispetto ai problemi che ha Cefalù. Cefalù ha bisogno di un'amministrazione forte, di un'amministrazione che ha d'altra parte anche un consiglio comunale che segue i problemi e che va con forza, diciamo, a risolverli, ed è evidente che con tutte queste candidature ci sarà una frantumazione dei consensi che non porterà sicuramente, per esempio, a un consiglio con il premio di maggioranza per il candidato a sindaco. Noi vediamo anche preoccupante questo proliferare dei candidati rispetto a quelle che sono, diciamo, le conoscenze dei problemi di Cefalù. Io faccio da 10 anni il consigliere comunale, capogruppo di 2 gruppi consigliari, i primi 5 anni di 5 consiglieri e poi successivamente di 3, e mi sono occupato, come tu sai, intensamente di quelle che sono tutte le problematiche che riguardano Cefalù, per cui è evidente che conosco benissimo non solo la macchina amministrativa ma anche tutte le questioni che riguardano il nostro ente locale. Non basta, ho sentito che qualcuno in qualche messaggio mi ha detto che il professore Croci, come ha detto l'assessore Nasca, ama Cefalù. Non basta amare Cefalù, e qui c'è bisogno di conoscere bene quali sono le situazioni e quali sono le soluzioni da proporre per cercare di risolverle. Non si parla soltanto dell'aspetto economico-finanziario, che è la questione principale, ma evidente riguarda tantissime altre questioni. Ed è per questo che io sono stato oppositore di due amministrazioni, ho deciso di candidarmi perché c'è stato un tempo per fare l'opposizione, c'è un tempo ora per proporre, per essere propositivo, come ho detto più volte, e per cercare di dare soluzioni alle tante problematiche di Cefalù. Non seguo con passione queste vicende che riguardano sgarbi sì e sgarbi no, ho letto di questa scelta che hanno fatto i partiti PDL, Forza del Sud e anche altri movimenti. È evidente che noi guardiamo con interesse l'apertura che ha fatto l'UDC, perché da mesi noi altri abbiamo aperto anche qualche trattativa con l'UDC, speriamo che questa vada in porto, ed è evidentissimo che Cefalù ha bisogno di alleanze rispetto alla legge elettorale che vengono fatte prima e non di candidati che pensano soltanto di magari farsi un giro o di magari di partecipare, ecco, a questa campagna elettorale esclusivamente per una questione di visibilità. No, cioè, c'è bisogno di alleanze forti, di guidare un'amministrazione che possa risolvere da subito i problemi emergenti che sono sotto gli occhi di tutti. Per cui la mia è una candidatura aperta, diciamo, a chi vuole collaborare. È evidente che noi altri in questi mesi ci siamo spesi anche per quanto riguarda cercare alleanze. La mia lista è la lista Svolta Democratica, ci sono appoggiato la lista del Partito Democratico e mi auguro che da qui a breve noi altri possiamo anche concludere, diciamo, con accordi tali da poter arrivare a vincere le elezioni del 2012. Grazie Rosario, buon pranzo, grazie per l'intervento, a risentirci. Grazie a te. E prima di chiudere, una comunicazione: sabato 3, domenica 4 marzo 2012, in circa 3.000 piazze italiane si svolgerà, sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica, Gardena dell'AISMI, la manifestazione organizzata dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, come sempre in contemporanea con la Festa della Donna, è dedicata all'universo femminile. Le donne, infatti, sono insieme ai giovani le più colpite dalla malattia. Su 63.000 persone con SM, con sclerosi multipla, in Italia, oltre 42.000 sono donne, 2 su 3. In termini assoluti questo significa circa 1.200 nuovi casi all'anno. Questo è fondamentale sostenere ed è questo lo scopo di Gardenia dell'AISM, la ricerca e servizi sanitari e sociali ad hoc per le donne con sclerosi multipla. Nei giorni della manifestazione vi aspettano nei punti di solidarietà 10.000 a Piazza Garibaldi, mi dice la regia, sì, a Cefalù, a Piazza Garibaldi, solidarietà, 10.000 volontari, grazie Angelo per la precisazione dell'associazione, affiancati dalla Protezione Civile, dall'Associazione Nazionale Bersaglieri, unita all'Associazione Nazionale Carabinieri, Assofante e all'Unione Nazionale Sottufficiali Italiani. Insieme distribuiranno oltre 250.000 piante di gardena confezionate con il sacchettino rosso, il colore simbolo dell'AISM, in cambio di una donazione di 13 euro. I fondi raccolti saranno destinati alla ricerca scientifica e a incrementare i servizi sociali e sanitari per le persone con sclerosi multipla, per sostenere il progetto Donne oltre la sclerosi multipla. Io ringrazio il radioascoltatore, a quanti hanno avuto la pazienza a seguire fino adesso, Fabio prima e Angelo accanto a Fabio, per questa diretta di qua e là, c'è una novità e l'altra, a Innocenzo che è rimasto con me fino al termine della trasmissione, grazie all'assessore Nasca, all'assessore Terranova, al sindaco Vasta, a quanti sono intervenuti, Patanella, per telefono, Rosario Lapunzina, Francesco Dolce, Ciccio per gli amici e Francesco Calabrese. Noi saremo qua e ogni domenica ci sarà questa aperta una finestra verso le elezioni amministrative del 2012. Da Pino Simplicio un buon proseguimento di domenica e a tutti ben sintonizzati sulle frequenze di CRM. Grazie. Abbiamo trasmesso qua e là tra una novità e l'altra.